notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Fermata nella notte, accusata dell'omicidio e sotto interrogatorio la madre del bambino ucciso nel Ragusano, finora ha negato tutto. Mafia Capitale, attesa per oggi la valutazione del prefetto su un eventuale scioglimento del comune, più probabile l'ipotesi di un rafforzamento dei controlli. Sempre meno stranieri arrivano in Italia, sempre più italiani lasciano il paese, 3 su 10 sono laureati, sono i dati del rapporto Istat sulle migrazioni. Il Ministero dei Beni Culturali entra con 1 milione nel capitale della Festa del Cinema di Roma, si riaccende la polemica con Venezia. Padoan sui dubbi europei, Bruxelles ci chiede di precisare l'impatto delle misure, non una manovra aggiuntiva. Juventus e Roma alla prova della Champions, questa sera tocca ai bianconeri contro l'Atletico Madrid, i giallorossi domani in campo contro il Manchester City. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Se volete contattarci, come sempre, c'è il numero di SMS durante la diretta, il 349-238-6666, c'è la nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno, oppure potete scriverci una mail, effettogiorno@radio24.it. In apertura dunque la cronaca con la vicenda dell'omicidio del bambino nel Ragusano e il fermo della madre. Non l'ho ucciso io, era il mio bambino, è la frase ripetuta agli inquirenti da Veronica Panarello, la donna fermata stanotte al termine di un interrogatorio durato 6 ore, accusata di aver ucciso il proprio figlio, Loris Stival, e di averlo gettato nel canalone del Mulino Vecchio, a Santa Croce Camerina, nel Ragusano. La mamma di Loris è accusata di omicidio e occultamento di cadavere e secondo gli inquirenti avrebbe agito da sola. Ha trascorso la notte guardata a vista da un agente di polizia. Ora la parola passa al giudice per le indagini preliminari, cui spetta il compito di convalidare o meno il fermo. La procura, che continua a interrogare la donna, ritiene di avere riscontri. La svolta è arrivata al termine di oltre una settimana di indagini che hanno puntato subito sulla famiglia del bambino. La mamma era fortemente sospettata. Troppe le incongruenze nel suo racconto su quanto accaduto quella mattina. Troppi buchi neri e quelle fascette trovate a casa sua e compatibili con quelle utilizzate per legare e strangolare il bambino. E ora il marito dice: se è stata davvero lei, mi cade il mondo addosso. Non ci posso credere. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Ragusa. Così la cronaca, ricostruiamo però come sono andate le cose, quali sono queste contraddizioni che hanno portato al fermo della madre. Raffaella Calandra, buongiorno. Sì, buongiorno. Le bugie di Veronica sono cominciate ad affiorare con l'esame dei video delle telecamere e la svolta è arrivata proprio dopo l'ultimo filmato. È stato davanti ai fotogrammi messi a disposizione da un'azienda agricola lungo la strada che porta al vecchio mulino di Santa Croce Camerina, dove è stato ritrovato il corpo di Loris, che i sospetti verso la mamma del bimbo di Ragusa sono diventate accuse precise che possono valere una condanna anche all'ergastolo. L'obiettivo inquadra un'auto nera compatibile con quella della mamma di Loris Stival, che ha continuato a ripetere, come abbiamo sentito, di aver portato a scuola il figlio quel sabato mattina, anche se in realtà già altre telecamere avevano ripreso il bimbo mentre tornava a piedi a casa. Orari, video, tutto smentisce la ricostruzione di quella giornata fatta da Veronica Panarello, rimasta in casa secondo gli inquirenti 36 minuti col figlio prima di arrivare in ritardo al corso di cucina, ma la sua auto sarebbe passata appunto anche in quella strada che porta alla canalone, e a carico della giovane mamma, descritta come una donna fragile che già 2 volte aveva tentato il suicidio, ci sono anche i fili da elettricista consegnati alle maestre di Loris, gli stessi con cui forse il bambino potrebbe essere stato strangolato. Ecco che allora, una dietro l'altra, le contraddizioni della donna sono diventati sospetti, poi indizi precisi, gravi e concordanti secondo gli inquirenti, tali da portare cioè ad un fermo di polizia ieri notte, proprio come in un'altra brutta storiaccia del passato a cui ora gli investigatori per primi sembrano affiancare la vicenda. Ragusa come Cogne? Lo vedremo, a cominciare da che cosa deciderà il giudice per le indagini preliminari. Simone. Grazie alla nostra Raffaella Calandra. Veniamo all'inchiesta su Roma e ai suoi effetti politici e istituzionali. Attesa per oggi una decisione del prefetto su un eventuale scioglimento del comune per infiltrazioni mafiose. Nel pomeriggio l'incontro col sindaco Marino. Il punto con Elisabetta Fiorito. Elisabetta. Si propone così, Simone, questa sera è previsto l'incontro tra Marina e il ministro dell'interno Angelino Alfano e il prefetto di Roma Giuseppe Pecoraro, un incontro a porte chiuse che era stato prima fissato per le 12 e poi subito poco fa è stato posticipato alle 18, si allontana l'ipotesi di scioglimento ma aumenta quella di un rafforzamento dei controlli. Subito dopo Marino parteciperà alla trasmissione Ballarò. Dalla politica alla cultura comunque è in corso un appello contro la corruzione. Per il Presidente del Senato Pietro Grasso la politica deve avere uno scatto, un colpo di reni, una rivolta morale per cercare di eliminare prima ancora della magistratura dalle proprie fila coloro che non meritano di rappresentare i cittadini. E c'è anche poi l'intervento del regista Carlo Verdone, ormai Roma è diventata una cloaca e se continuano a scoppiare scandali di questa portata ci dobbiamo aspettare tumulti di piazza, ma quelli veri. Non c'è più spazio, dice Verdone, per l'ironia, ma solo per la rabbia e l'indignazione. Dall'opposizione invece Forza Italia e Movimento 5 Stelle continuano a chiedere le dimissioni del sindaco Ignazio Marino e nuove elezioni. A te Simone. Grazie alla nostra Elisabetta Fiorito e delle vicende di Roma torneremo a parlare più avanti nel corso di Effetto Giorno. Incontreremo un consigliere comunale della lista Alemanno, si parla già dell'ipotesi di una sorta di dimissioni in massa per una serie di consiglieri comunali e di questo parleremo perché appunto al di là delle decisioni del prefetto c'è anche una possibilità di questo tipo. Veniamo alla conferenza stampa di presentazione dello sciopero generale questa mattina con naturalmente il leader della UIL e della CGIL, Alessandra Schepisi, eccoci. Sì, buongiorno, così non va questo lo slogan scelto da CGIL UIL per lo sciopero generale di venerdì, uno sciopero contro la riforma della pubblica amministrazione, il Jobs Act, la legge di stabilità e la politica economica del governo, hanno spiegato i due leader sindacali Camusso e Barbagallo durante la conferenza stampa. A determinare questa scelta non solo le posizioni dell'esecutivo sul Jobs Act con la battaglia sull'articolo 18 e la legge di stabilità, ma anche il rifiuto del Premier di un'interlocuzione con le rappresentanze dei lavoratori. Ma in particolare sull'articolo 18 sentiamo la posizione ribadita da Susanna Camusso. Tutta la discussione è fatta e costruita sull'idea che se tu hai fatto un licenziamento ingiustificato, se lo mascheri in altro modo, siccome non c'è il reintegro, è, come dire, monetizzabile. Il tema è che in questo modo tu fai venir meno la ragione deterrente di questa norma e quindi rendi comunque il lavoratore più in difficoltà. E alle accuse di voler fare uno sciopero politico sentiamo invece la risposta del leader della UIL, Barbagallo. Lo sciopero politico lo fanno gli elettori quando non si recano alle urne. Il sindacato fa lo sciopero per. Noi siamo per fare un'azione di lotta per rivendicare gli 80 euro ai pensionati, per rivendicare i contratti dei pubblici dipendenti, per rivendicare risorse per gli ammortizzatori sociali, per rivendicare delle regole non penalizzanti per i giovani che trovano lavoro. E ricordiamo che invece la CISL non aderisce perché soprattutto sul Jobs Act ha una posizione meno dura, prima i decreti attuativi, poi si valuterà, ha detto la leader Anna Maria Furlan, CISL che però la scorsa settimana è scesa in piazza con i lavoratori pubblici per chiedere il rinnovo del contratto della pubblica amministrazione. Da Roma è tutto. E grazie alla nostra Alessandra Schepisi, noi restiamo sui temi della politica economica perché è tornato a intervenire questa mattina il ministro dell'economia per Carlo Padoan che dice lo sforzo in più richiesto dall'Unione Europea ha a che fare con l'efficacia delle misure, cioè si tratta di precisare l'impatto di quelle che il governo ha già adottato, mentre alcuni danno una diversa interpretazione, insomma l'Europa ci sta chiedendo sostanzialmente una nuova manovra. Siamo con Dino Pesola del Sole 24 ore in collegamento da Bruxelles. Dino, innanzitutto buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno a te. Ti chiediamo l'interpretazione autentica di tutto questo. Bruxelles ci sta chiedendo uno sforzo aggiuntivo oppure no? L'interpretazione autentica è in una disputa lessicale che si è praticamente attivata a partire da ieri e che obiettivamente lascia uno spazio negoziale, ed è tutto evidente, perché nel comunicato di ieri sera dell'Eurogruppo non si fa esplicito riferimento a una manovra aggiuntiva, ma si chiedono sforzi supplementari in direzione soprattutto delle riforme. Allora, adesso al di là anche delle interpretazioni che se ne possono dare, sicuramente quello che emerge è che c'è un'attenzione costante da parte della Commissione e anche da parte dei ministri perché quello di ieri è un organo politico, non dimentichiamolo, sui conti italiani, cioè ma più che sui conti italiani, sulla capacità effettiva del nostro paese di portare a termine il percorso delle riforme che si sono intraprese. Facciamo solo un esempio, la riforma del mercato del lavoro che è stata presentata qui è una legge delega e quindi si attende di vedere quando e come e se verranno approvati i relativi decreti legislativi. La discussione è sostanzialmente sulla velocità nella capacità del governo italiano di portare a casa quello che ha promesso. Questa è la sostanza. Allora, grazie a Dino Pesole per questi chiarimenti e vedremo come andrà naturalmente nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Dino Pesole, che citava la riforma del lavoro, è quello di cui ha parlato anche Christine Lagarde, direttore del Fondo Monetario Internazionale, oggi in visita a Milano all'Università Bocconi. A seguire questa visita c'era la nostra Anna Marino. Anna, eccoci, buongiorno. Buongiorno a te Simone, buongiorno agli ascoltatori. E appunto, disoccupazione giovanile ma anche legalità e buone decisioni economiche per la crescita. È entrato nel vivo dell'attualità il presidente Mario Monti all'inaugurazione dell'anno accademico in Bocconi e ha passato il testimone a Christine Lagarde, direttore appunto del Fondo Monetario Internazionale, che ha premesso: sono qui per pagare e onorare il mio debito con le misure prese a suo tempo da Monti e dal suo governo. E ha risposto punto per punto Christine Lagarde: per affrontare il problema della disoccupazione giovanile, responsabilità appunto comune a livello nazionale ed europeo. Quindi è andata punto per punto in Italia. Il primo punto è la riforma del mercato del lavoro, la disoccupazione, ha detto, in Italia è al 40%, si può paragonare all'Umbria, alla popolazione dell'Umbria, 700.000 persone. Ha detto sì al Job Act e con il contratto unico, sì alla formazione in esso contenuta e alle politiche attive del lavoro e sì a misure per abbassare il cuneo fiscale che potrebbero creare 60.000-130.000 posti di lavoro in più. Secondo punto, sì alla riforma giudiziaria nel nostro paese che evita lunghezze dei processi diverse da zona a zona. Terzo punto, sì alla riforma del settore bancario, soprattutto per le PMI, per la loro crescita. E questo per quanto riguarda l'Italia, ma ha detto anche l'Europa deve dare fuoco a tutte le cartucce, quindi sia la politica monetaria della BCE, finora ha fatto bene, ma è necessaria anche una politica fiscale per la crescita e il lavoro. Infine occorre flessibilità nelle regole del patto di stabilità e crescita in Europa e riforme strutturali nei paesi. Quindi alla fine un no al cinismo che paralizza e un appello ai giovani a prendere un'altra via, quella del cambiamento. E per ora è tutto. Grazie ad Anna Marino. Abbiamo parlato molto di lavoro, ebbene oggi è stato firmato ufficialmente a Palazzo Chigi l'accordo per quanto riguarda la Lucchini di Piombino e c'è Livia Zancanera ad aggiornarci. Livia. Sì, buongiorno Simone. L'accordo era già stato annunciato stamattina a Palazzo Chigi, come dicevi tu, c'è stata la firma ufficiale. Il presidente del gruppo algerino Sevita, Lissad Rebrab, ha parlato di un grande progetto per Piombino che riguarda non solo il siderurgico con la produzione di 2,5 milioni di tonnellate di acciaio l'anno, ma anche la creazione di una grande piattaforma logistica in tutto il Mediterraneo di complessi agroalimentari. Rebrab poi ha assicurato: non solo manterremo tutto il personale, circa 1.900 lavoratori, ma contiamo di creare più lavoro nei prossimi 4 anni. Soddisfatto il premier Matteo Renzi, si tratta di un'acquisizione strategica, un grande messaggio per gli investitori stranieri e per il futuro di un settore decisivo per domani, ha detto il premier, che ha poi ringraziato anche i sindacati. Sentiamo. Un grazie anche ai sindacati. Può sembrare per voi che sia una stranezza che questo elemento di gratitudine sia espresso dal sottoscritto, lo faccio ben volentieri perché, come sapete, abbiamo opinioni diverse su alcune questioni, su tante questioni, ma quando si tratta di ragionare nel merito delle vertenze aperte è fondamentale che si discuta insieme. Abbiamo discusso insieme anche su Piombino, quindi il mio grazie alla FIOM, alla FIM, alla UILM, a tutte le sigle sindacali, i confederali, i territoriali, tutte le sigle sindacali. È del resto la mia opinione, è giusto che quando ci sono delle vertenze aperte i sindacati stiano al tavolo, è quando si tratta di fare le leggi di stabilità che deve essere il Parlamento a stare al tavolo. E poco fa in un tweet Renzi ha scritto: in una settimana Terni, Piombino, legge sul rientro capitale, autoriciclaggio, nomina di Andrea Guerra, approvazione, legge delega sul lavoro, ILVA, anche questo è Jobs Act. E per ora è tutto, a te Simone. Grazie Livia Zancaner. Lavoro dunque, e quanti italiani lasciano questo paese per cercarlo? Oggi il rapporto sulle migrazioni dell'Istat. Un'Italia dalla quale gli italiani se ne vanno e gli stranieri arrivano sempre meno. Questa l'istantanea scattata dall'Istat nel report sulle migrazioni internazionali interne della popolazione residente. Il numero di cittadini stranieri che hanno lasciato l'Italia nel 2013 è in aumento rispetto all'anno precedente del 14%, ma soprattutto il numero di emigranti italiani è salito del 20% rispetto al 2012. Erano nel 2013 82.000, il numero più alto degli ultimi 10 anni. Migrano soprattutto le persone tra i 20 e i 45 anni. Il Regno Unito è la meta preferita dei laureati, come spiega il curatore del rapporto Enrico Tucci. Quest'anno per la prima volta il Regno Unito diventa la prima destinazione nella graduatoria dei paesi di approdo, mentre prima storicamente è sempre stata la Germania. In calo invece gli arrivi stranieri. Nel 2013 sono stati 307.000, 43.000 in meno rispetto all'anno precedente, un calo quindi del 12%. L'immagine del barcone è sempre stata un'immagine non rappresentativa della realtà, nel senso che quella quota di clandestini, cioè di persone che entrano illegalmente sul territorio, è una quota molto bassa. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo al calcio, adesso le italiane in Europa, Juventus e Roma, naturalmente di queste che parliamo e soprattutto della Juventus che è in campo questa sera. Giovanni Capuano, buongiorno. Sì, buongiorno, notte di Champions, primo passaggio decisivo per il calcio italiano che ha bisogno di uscire bene da questa settimana per recuperare prestigio internazionale e autostima. C'è, come dicevi, Juventus-Atletico Madrid, la Juventus è davanti a un bivio, può accontentarsi di pareggiare, il risultato che va benissimo, anche gli spagnoli però finendo così seconda nel girone con la prospettiva di un sorteggio da incubo, oppure può inseguire la vittoria con 2 gol di scarto che garantirebbe il primato nel gruppo. Allegri ieri ha giurato di volere questa seconda opzione. Nella testa di molti juventini c'è però anche il rischio di una beffa che si materializzerebbe in caso di sconfitta. In ogni caso questa sera a Torino si parte alle 20:45, l'Atletico sta bene, in salute, non ha problemi. Allegri sembra aver scelto Llorente davanti al posto di Morata come compagno di Tevez. Domani poi tocca la Roma, alla quale serve una mezza impresa contro il Manchester City. Oggi però l'altra notizia di calcio, a parte la Champions, riguarda il Parma, che in attesa di finire nelle mani dei nuovi proprietari russo-ciprioti, di cui ancora non si conosce l'identità, ha ricevuto 1 punto di penalizzazione in classifica per l'IRPEF della passata stagione non regolarizzata nei termini di regolamento. Dunque la squadra di Donadoni scende da 6 a 5 punti in classifica, sempre più all'ultimo posto, e le penalizzazioni potrebbero anche non essere finite qui, perché c'è la questione dei pagamenti degli stipendi di agosto e settembre. Anche lì il Parma è arrivato tardi. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Fermata nella notte, accusata dell'omicidio sotto interrogatorio la madre del bambino ucciso nel Ragusano, finora ha negato tutto. A Via Capitale è attesa per oggi la valutazione del prefetto su un eventuale scioglimento del comune, più probabile l'ipotesi di un rafforzamento dei controlli. Sempre meno stranieri arrivano in Italia, sempre più italiani lasciano il paese, 3 su 10 sono laureati, sono i dati del rapporto Istat sulle migrazioni. Il Ministero dei Beni Culturali entra con 1 milione nel capitale della Festa del Cinema di Roma, si riaccende la polemica con Venezia, ne parleremo tra un attimo col presidente della Regione Veneto Zaia. Padoan sui dubbi europei, Bruxelles ci chiede di precisare l'impatto delle misure, non una manovra aggiuntiva. E le ultime due notizie che vi diamo, che sono appena arrivate, la prima riguarda una strage familiare, un operaio ha ucciso con un colpo di pistola la moglie dalla quale si stava separando il figlio di 5 anni e poi si è tolto la vita, è avvenuto a Numana, provincia di Ancona. E poi un'altra notizia di cronaca, ieri era stato ritrovato un cadavere in un sacco lungo la sponda del Po a Bardelle nel Mantovano, ebbene i carabinieri hanno fermato una persona, ma naturalmente maggiori aggiornamenti appena ne avremo. Gianluigi De Palo, consigliere comunale della lista Alemanno a Roma, Cittadini per Roma, ex assessore alla famiglia, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. O Gigi De Palo, perché mi risulta che tutti la chiamino così, adesso non so, insomma, la vedo anche, intervistato in questo modo. Senta, De Palo, voglio capire questo, lei è stato anche assessore nella precedente giunta, ma non partirei da questo e poi veniamo alla situazione che si vive in queste ore in Consiglio Comunale a Roma. Non si è mai accorto di nulla, non ha mai avuto la percezione di nulla? Ma io, come ho detto, ho chiesto più volte, visto che c'erano comunque delle persone di cui non mi fidavo, ma così a pelle, no? Che non ti piacciono, se c'erano legami. Lui, mi ricordo, una volta in una stanza mi ha giurato che questo non c'era. Dico però anche che la cosa grave è che noi rischiavamo, a quanto si evince dalle intercettazioni, la vita. Io ho 4 bambini, rischiamo la vita quotidianamente con le scelte che uno portava avanti. Io, diciamo che non vengo dai partiti, ero presidente delle AGLI e del Forum delle Famiglie, quindi venivo dalla società civile e quindi non avevo, diciamo, legami di altro tipo, se non quello appunto di fare l'assessore tecnico. Ciononostante credo che sia molto grave quello che è successo e che la nausea, l'indignazione, la rabbia che provano i cittadini è la stessa che prova una persona come me, che così pensava di fare del bene, pensava di occuparsi della cosa pubblica, pensava di servire la sua città, mentre invece sotto banco c'erano situazioni molto negative. Lei ha parlato, De Paolo, di un clima letteralmente invivibile nel Consiglio Comunale adesso a Roma, perché come dire, nessuno sa più di chi fidarsi, con chi parlare, a chi rivolgersi, perché teme sempre che nella persona con la quale parla si nasconda qualcuno collegato a quegli ambienti. Questo è quello che si prova, nel senso che è difficile fare il consigliere comunale quando il consiglio comunale sta lì a disposizione dei cittadini per la risoluzione dei problemi, per dare un indirizzo alla città. E quando tu hai paura di incontrare i cittadini perché non sai di chi si tratta, quando tu hai paura di chiamare un ufficio o chiamare un dirigente per capire come si può risolvere il problema, banalizzo, no, della centralina piuttosto che della buca, e tu non sai come comportarti in queste situazioni, questo è grave. Allora io mi sono trovato per la prima volta in vita mia a registrare delle telefonate mentre parlavo con dei dipendenti e degli uffici, e ho detto no, questo non è normale. Se si continua in questa metodologia, molto probabilmente non riusciamo a svolgere il ruolo cui siamo stati chiamati. Allora io dico, ma in questo caso De Paolo, in questo caso non è meglio a questo punto veramente lo scioglimento del comune? Perché in una situazione di questo genere, con questo timore di lavorare che avete e che probabilmente attraverserà, immagino, non solamente voi ma anche le persone degli altri partiti o movimenti politici, non è meglio lo scioglimento a questo punto? Ma io credo che lo scioglimento in un certo senso dia l'immagine che tutto quanto è marcio, tutto quanto fa schifo e tutti quanti sono mafiosi, mentre invece io dico, riflettiamo insieme, consiglieri comunali, con un atto di maturità, se è il caso o meno di continuare in questo modo. Anche perché, lo dico, il sindaco non è che ha modificato chissà che cosa, ha mantenuto la giunta con le dimissioni che ci sono state. Qualora il sindaco dicesse guarda, azzeriamo la giunta, facciamo diciamo una giunta tra virgolette di bene comune, coinvolgendo tutte le forze della città, giunta di unità capitolina, dice lei. Ecco, una giunta di unità capitolina si potrebbe ragionare, ma altrimenti così veramente c'è un clima di sospetto che non ci permette di ragionare e di vivere bene il ruolo che stiamo svolgendo. È vero che state pensando alle dimissioni in massa, lei e una serie di altri consiglieri comunali? Allora io credo che singolarmente tutti quanti i consiglieri non si sentono nelle condizioni di svolgere nel miglior modo il loro ruolo. Questo però poi si scontra con tutte le esigenze di partito, e quindi se singolarmente i consiglieri mi dicono sì, anch'io sto pensando questa cosa, sì, anch'io penso questa cosa, poi quando si tratta di prendere delle decisioni seguono delle logiche di partito. Io nella prossima capigruppo porrò questo tema e cercherò di ragionare con gli altri, ma in maniera, lo ripeto, molto serena, senza andare a fare delle riflessioni su cosa succederà dopo. Io dico che oggi noi non riusciamo a svolgere il nostro ruolo nel miglior modo possibile. Grazie Gianluigi De Paolo, ex assessore alla famiglia in Roma Capitale, ora consigliere comunale della lista Alemanno. Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, bentornato ai nostri microfoni. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno. Con lei vogliamo parlare di questa vicenda che, se abbiamo pronto il servizio, lo facciamo riassumere direttamente alla nostra collega, ed è una vicenda che riguarda il Festival di Roma e naturalmente la festa del cinema di Roma e Venezia. Sentiamo. Si è pensato ad esempio di scegliere una data fissa e riconoscibile, come per l'apertura della Scala a Milano, che tenga conto anche di altri eventi internazionali e che potrebbe cadere nella seconda la settimana di ottobre. Nessun nome invece ancora per il nuovo direttore. Allora, no. Allora, abbiamo un problema evidentemente col servizio che insomma ha avuto evidentemente dei problemi di registrazione. La vicenda ve la riassumo io. Che cosa è successo? È successo che il Ministero dei Beni e le Attività Culturali ha deciso sostanzialmente di entrare nella fondazione, attraverso l'Istituto Luce, nella fondazione Cinema per Roma, che è quella che organizza la Festa del Cinema di Roma. Come sapete c'è una querella da quando questa Festa del Cinema è nata con Venezia, e c'è stata anche una protesta da parte di Venezia proprio per questi soldi messi dal Ministero, perché la cosa circolava già da qualche giorno. Oggi è arrivata l'ufficialità. Zaia, immagino che lei non sia per nulla soddisfatto. Ma guardi, io non ce l'ho con Roma, con i romani, però al di là del tempismo dell'elefante che entra in cristalleria, in un momento come questo dare un annuncio come questo, però non è che può sempre funzionare. Cioè intende, però, con tutte le inchieste che ci sono? Ma sì, ma cioè, è imbarazzante, ma dico, non è che può funzionare perché Roma Capitale vuole il Gran Premio, allora di Formula 1 tutti a cercare di dare Gran Premio a Roma. Roma Capitale qualche anno fa, ma veramente qualche anno fa, mi sembra sia del 2006-2007, si inventa il Festival del Cinema, o la Festa del Cinema, la chiami come vuole, in contrapposizione con il Festival del Cinema di Venezia, che esiste da sempre, cioè è riconosciuto a livello internazionale, cioè è da Repubblica delle Banane, cioè in Francia c'è Cannes, in Germania c'è Berlino, negli Stati Uniti c'è Los Angeles, però c'è Venezia. E però dice oggi Franceschini, dice, guardate che tanto non ci sarà concorso, cioè rimarrà solamente una festa del cinema, un momento di celebrazione, non ci sarà più concorso, non ci sarà più premiazione, è un correttivo che le va bene. Ma scusi, a maggior ragione vuol dire che sono soldi buttati via. E poi ci diranno anche, non c'è nessuna spesa per l'ingresso in fondazione da parte dell'Istituto Luce. Ma io dico, ma se hai il Festival del Cinema conosciuto in tutto il mondo, abbiamo oltre 6.000 giornalisti accreditati ad ogni festival, fai entrare l'Istituto Luce al Festival del Cinema di Venezia. Io dico che l'unica decisione che si deve prendere in questo momento è di chiudere il Festival del Cinema di Roma, perché non serve a nulla, perché a livello internazionale c'è già un festival per l'Italia ed è Venezia. Senta Zaia, ma però Venezia riceve finanziamenti dallo Stato o no? Beh, ci mancherebbe, rispetto a tutto quello che diamo, ma i nostri finanziamenti sono un'inezia rispetto al lavoro che viene fatto. Noi non siamo oggetto di polemiche, di scandali o di casini vari, cioè noi abbiamo una rendicontazione che è certosina e facciamo un festival che è sotto i riflettori, nel senso che porta migliaia di persone, centinaia di migliaia di persone, che funziona e che è un palcoscenico utile per tutta la nostra produzione cinematografica e per tutto quello che è poi l'aspetto culturale di questo evento. Come intendete protestare, Zaia? Ma guardi, noi ormai siamo esasperati, perché questa la leggiamo come l'ennesima provocazione. E dire che non ci saranno le premiazioni a Roma, che non ci sarà concorso, e allora io mi dico, ma cosa fanno, una cena, ci sarà un gala? Vabbè, cioè, mi dico, il Ministero dei Beni Culturali finanzi quello che di buono già c'è, e ad esempio per il cinema c'è Venezia, che è il festival di chi vive in Sicilia, di chi vive a Napoli, di chi vive a Torino, di chi vive a Roma, cioè finiamola con questa vicenda dei due festival a livello nazionale, solo la Repubblica delle Banane è una roba del genere. Grazie Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, buona giornata, ci fermiamo e tra un attimo parliamo di mercati, poi ritorneremo sui mercati anche nella seconda parte della trasmissione, perché vi segnalo che la situazione in Grecia non va per nulla bene, oggi Atene perde circa il 9% con le banche particolarmente pesanti. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. È stata fermata nella notte, accusata dell'omicidio, interrogata ancora stamattina la madre del bambino ucciso nel Ragusano, finora ha negato tutto. Mafia Capitale, attesa per oggi la valutazione del prefetto su un eventuale scioglimento del comune. Sempre meno stranieri arrivano in Italia, sempre più italiani lasciano il paese e 3 su 10 sono laureati. I dati sono dell'Istat. Juventus e Roma alla prova della Champions, questa sera tocca ai bianconeri contro l'Atletico Madrid, i giallorossi domani in campo contro il Manchester City. La borsa. Borse in diretta. Brutta giornata in Europa, naturalmente in particolare per la Grecia, come vi dicevamo poco fa e nella seconda parte della trasmissione, subito dopo l'appuntamento di borsa, ci torneremo con il collega del Sole 24 Ore che si occupa di queste vicende per capire come mai Atene scenda del 9%. Brutta giornata in Europa, si diceva comunque, meno 1,68% il FTSE MIB, meno 1,61% il FTSE OCER, negative anche le altre piazze finanziarie, Parigi giù dell'1,5%, Francoforte dell'1,12%. Eleonora Micheli, Radio Cuore, il Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Come mai vanno così male i mercati? Ma ovviamente si teme per la crescita in Europa, anche ieri l'OCSE ha lanciato l'allarme, non lo dimentichiamo, poi come hai detto tu Atene è arrivata a perdere il 10%, si teme per l'instabilità politica e quello che possa succedere e quindi questo è un'ulteriore fonte di allarme. In tutto ciò va considerato che anche tutte le borse asiatiche sono andate male su un timore di un rallentamento dell'economia cinese. Giuffi in meccanica del 3,42, Jux del 3,23, Banco Popolare del 2,93, Prismian del 2,83, Buzzi del 2,80, Mediobanca del 2,77, Popolare Emilia Romagna del 2,7, Ubibanca del 2,5. Eleonora, mi sembra che complessivamente non ci sia qualche tema in particolare che domina a vedere i titoli, perché c'è di tutto, dagli industriali ai servizi, passando per le banche. L'unico tema, guarda, Banca MPS che era arrivata a guadagnare oltre il 4% questa mattina, anche adesso oscilla attorno alla parità, comunque non va giù. Questo perché un report di HSBC ha indicato che i titoli potrebbero rimbalzare e ovviamente ha favorito gli acquisti. Il fatto è che la stessa HSBC nei giorni scorsi, esattamente il 4 dicembre, aveva consigliato di vendere le azioni proprio di Banca MPS. Grazie anche per oggi ai colleghi di Radio Cuore, il Sole 24 Ore, grazie ad Eleonora Micheli, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. E siamo, come si diceva, a parlare della situazione in Grecia. Grecia sulla quale si addensano di nuovo delle preoccupazioni. Come avete sentito, la borsa di Atene oggi è arrivata a perdere addirittura il 10%. Naturalmente particolarmente pesanti, come sempre, le banche in questi casi. E siamo con Vittorio Darold del Sole 24 Ore. Vittorio, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora Vittorio, a cosa dobbiamo questo crollo di borsa? Questioni, si diceva, eminentemente politiche, mi sembra di capire. Sì, esattamente, è un ingorgo istituzionale. Il paese deve andare al voto per rinnovare il Presidente della Repubblica che scade a febbraio. Il voto è un voto parlamentare nella Camera monocamerale composta da 300 deputati. Ahimè, le regole costituzionali prevedono che ci voglia una maggioranza di 2/3, quindi 180 deputati, altrimenti se non la si raggiunge si va al voto anticipato. Ecco perché il Premier Antonis Samaras, che è il capo di una coalizione con Neodemocrazia e i resti della PASOK, il Partito Socialista, hanno giocato la carta dell'anticipo e quindi hanno deciso di andare al voto alle presidenziali con il primo voto a 17 dicembre, il 22 dicembre il secondo voto e il terzo, quello decisivo, si svolgerà il 27 dicembre. Quindi appunto a brevissimo termine, entro la fine dell'anno, la sostanza è che i mercati complessivamente stanno scommettendo sul fatto che si andrà ad elezioni anticipate. Sì, esatto, perché è molto difficile, avendo 155 deputati di maggioranza, a cui magari potrà aggiungere una ventina, non riuscirà con molta probabilità a arrivare ai 180. A questo punto si va al voto anticipato in un momento molto delicato, perché alla fine dell'anno scade il piano di salvataggio dell'Unione Europea verso appunto la Grecia, che ha avuto una proroga di 2 mesi, una proroga tecnica, ma il problema è che prima di dare ancora la tranche di 7 miliardi di aiuti, gli ultimi aiuti, la Troica vuole altre riforme, misure di austerità che ahimè sono naturalmente impopolari. Ecco perché il governo Samaras teme che se dovesse far passare ulteriori misure di austerità, le sue possibilità di vittoria sarebbero veramente ridotte al lumicino. E oggi il partito chi è il candidato a vincere in questo momento? Dunque Stavros Dimas, che è un ex commissario europeo, che è il candidato di bandiera del centrodestra. Ma il problema è che normalmente si cerca di avere, vista la composizione del sistema elettorale per la Presidenza della Repubblica, un candidato che raccolga il più ampio spazio possibile e consensi possibili, ma naturalmente l'opposizione, che è in mano a Alexis Tsipras, il leader di Syriza, la sinistra radicale, sta giocando il tutto per tutto perché non si arrivi a un presidente, perché questo le consentirebbe di andare alle elezioni anticipate. Grazie a Vittorio Darold del Sole 24 Ore, che da ormai da molto tempo si occupa di Grecia, per averci chiarito qual è la situazione, come mai i mercati stanno andando così male, anche per averci dato una prospettiva, perché a questo punto immaginiamo che le tensioni sulla Grecia resteranno ad addensarsi quantomeno fino al 17 dicembre, ammesso che il 17 dicembre si avrà un nome per la presidenza della Repubblica. Parliamo adesso di un ladro che apparentemente si è ravveduto, è l'uomo che ha rubato, che aveva rubato la testa del Medardo Rosso, la testa di Medardo Rosso, quella che rappresentava un bambino, dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma. Ebbene, ieri è stata ritrovata e tutti si chiedono che cosa sia successo nella testa di questa persona. È una storia a lieto fine, tanto per cambiare, è accaduta a Roma, ma con un piccolo mistero che stuzzica. Perché un ladro di un'opera d'arte 3 giorni dopo la riporta al museo? Cosa c'è dietro? Un oddio, cosa ho fatto? Oppure l'ultimo sberleffo di un ladro gentiluomo? Mistero. Ma intanto alla Galleria Nazionale di Arte Moderna, dove ieri mattina è stato ritrovato in un armadietto la testa di Medardo, opera di fine 800 super quotata, c'è un bel imbarazzo. L'unica cosa certa, grazie alle telecamere, è che a rubare l'opera è stato un signore in giacca e cravatta, che dopo averla tolta dalla stele se l'ha infilata in una borsa da fotografo. Nessun allarme, nessuna sirena. Se era spacciato per un giornalista, ha raccontato uno dei custodi, ancora frastornato dalla vicenda. Oddio, che un giornalista fosse a un museo, avrebbe dovuto insospettirlo. Daria Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un ultimo aggiornamento prima di sentire cosa succede sulle strade: il bollettino medico per quel che riguarda il medico scusate la cacofonia di Emergency ricoverato allo Spallanzani di Roma. Condizioni che rimangono stabili, il paziente resta in assistenza respiratoria meccanica, la prognosi rimane riservata. Questo appunto il bollettino di oggi, vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. È il momento di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero. Sony Pictures is investigating the hacking of its computer systems ahead of the release of a film about the leader of North Korea. In the movie, two reporters are granted an audience with Kim Jong-un. The CIA then enlists the pair to assassinate him. Pyongyang has refused to deny any involvement in the cyber attack. L'informatica beh, ci aiuta in modo straordinario, ma è anche un problema straordinario. Avete sentito da questo newscast televisivo americano dell'attacco dell'altro giorno di hacker contro la Sony per rubare dei film che sono stati poi messi, dei film ancora inediti, che sono poi stati messi su internet gratuitamente. Questo è l'incubo ovviamente di chiunque abbia un copyright di qualunque genere da proteggere. Ma un'altra notizia che devo dire mi ha colpito è stata una class action contro l'Apple Computer per una sorta di accusa di monopolio sull'utilizzo di iPod, che consente alla Apple di imporre dei prezzi superiori a quelli che per esempio si possono trovare su Amazon per scaricare una canzone. E quindi la class action in America è quella azione legale che viene portata da un gruppo molto numeroso, spesso di persone, per ottenere un risarcimento danni di qualche genere. In questo caso risarcimento danni richiesto $350 milioni minimo, perché qualche esperto legale dice che si potrebbe arrivare anche a un miliardo. Ecco, noi dipendiamo, viviamo nel settore digitale, siamo nell'economia digitale e abbiamo visto i successi negli ultimi tempi. Apple Computer ovviamente è una grande storia, ma è una grande storia dei pionieri dell'era informatica. Abbiamo visto le grandi storie più recenti, l'ultima quella di Alibaba, un sito straniero che si è quotato in borsa simile ad Amazon.com, conoscete le storie di Twitter, conoscete le storie di Facebook e così via, così via. E la domanda che tutti si pongono è, ma quale sarà il prossimo? Perché tutti in qualche modo pensano che ci sarà un prossimo. E allora io vorrei parlare del prossimo che potrebbe avere, guarda caso, una matrice italiana. E io, guarda caso, ho con me ai microfoni di America 24 un ragazzo italiano che sta provando questa avventura dopo aver preso un biglietto di solo andata per New York. Gianmarco Crismale, amministratore, presidente di QuickWord, una società che, udite udite, vuole diventare il prossimo social network. Buongiorno Gianmarco. Buongiorno a voi, grazie. Allora, intanto, insomma, una battaglia dura perché porsi come punto di riferimento ai grandi denota un grande ottimismo, o sbaglio? Assolutamente sì, ma le battaglie non ci fanno paura, anzi, la sfida è grande e vogliamo vincerla. Sfida grande da vincere, per farlo ci vuole unicità. Qual è il vostro prodotto? Spieghiamolo. QuickWord è il primo social network che consente agli utenti di scrivere la prima parola che viene loro in mente in risposta ad uno stimolo. Uno stimolo che può essere una fotografia, per esempio? Assolutamente. Ecco, io vedo una foto e reagisco, bello, brutto, odio, ma qual è il vantaggio competitivo di questa unicità della parola, anche dal punto di vista di chi fa business, per esempio? Il vantaggio è che si può capire qual è l'emozione, la reazione che ruota attorno agli stimoli e alle immagini. Quindi, per quanto riguarda le aziende, per quanto riguarda gli addetti ai lavori, ovviamente è qualcosa di importantissimo, perché soprattutto oggi nel mondo che viviamo tutto ruota attorno agli stimoli visivi. Ecco, mi viene in mente Buzzword, che ha qualcosa di simile alla fine. Qual è la vostra differenza? Perché il vostro è meglio del prodotto Buzzword? La differenza è che in questo caso gli utenti possono scrivere la prima parola che viene in mente, mentre nell'altro caso ci sono già parole precostituite e scritte in cui l'utente deve poter scegliere. Ecco, il vostro prodotto è già online, quindi chi vuole può andarselo a vedere, diventare membro, diventare socio. Cosa si fa? Quickword.com? Certo, c'è il sito web, ma ci sono anche le applicazioni per quanto riguarda Android e iOS. Ecco, Crismale, lei è arrivato qui in America cercando fortuna. Cos'è che l'ha spinta a venire qui? Com'è che lei quanti anni ha? 29. Quindi è giovanissimo, fa già l'imprenditore, già amministratore delegato di un'azienda, quando in Italia giovani della sua età non sanno dove battere la testa. Come le è venuta in mente questa idea imprenditoriale? Quando ha cominciato? Com'è che ha deciso di venire in America? Ci racconti un po' la sua storia. Sì, è vero, io sono amministratore delegato e presidente di questa società, ma dietro tutto ciò c'è grande sacrificio e tanti mesi spesi a migliorare il prodotto, a far crescere la società, a far crescere il network, perché non dimentichiamo, il network e le connessioni sono la base del successo delle aziende, network, dei progetti. Un network, questo fatto da programmatori italiani, se non sbaglio, no? Tutto questo, sviluppatori italiani? Assolutamente sì, ci sono anche delle persone qui in America che ruotano attorno allo sviluppo del prodotto, ma in primis si trovano in Italia. Ecco, qual è stato l'impulso che a un certo punto le ha detto io prendo un biglietto di sola andata in America? Perché? Perché, come dice la canzone, if you can make it here, you can make it everywhere, cioè se ce la fai qui a New York, ce la fai dappertutto? Dal primo minuto, quando ho avuto l'idea, ho detto devo lanciarlo in America, perché quello è il mercato adatto per lanciare un prodotto. Con tutto rispetto per l'Italia, credo che questo sia il posto adatto dove poter avviare un'attività di questo tipo. In Italia ovviamente si possono avviare altre tipologie di attività, però per questo settore bisogna venire in America e poi ovviamente si può aggredire il resto del mondo. Ecco, i soldi, ci vogliono dei soldi, ha trovato dei finanziatori, com'è il vostro progetto? Perché c'è un progetto di business. Assolutamente, noi abbiamo fatto una scelta ben precisa all'inizio, abbiamo optato per una strategia in cui non si è andati da un incubatore, non si è andati da investitori, ma siamo venuti in America e abbiamo approdato a questo mercato inizialmente con i fondi provenienti dal nostro network, quindi dalla famiglia, dagli amici e dalle prime persone che hanno contribuito a questo progetto. Ecco, in una parola, visto che il progetto su una parola, in una parola, qual è la sensazione che lei prova adesso, oggi, a essere qui a New York e in America per cercare fortuna? Tenacia. senza ombra di dubbio. Ci potrebbero essere mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, ancora qui con me Gianmarco Crismale, ai microfoni di America 24, imprenditore che cerca fortuna a New York, in America. Gianmarco, una canzone americana che la ispira in questo momento? Senza ombra di dubbio, Empire State of Mind. Empire State of Mind. Beh, Empire State è New York. New York è l'Empire State. Empire State Building, non a caso. E dunque di Jay-Z e Alicia Keys, Empire State of Mind. I made the Yankee hat more famous than the Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot, corners where we selling rock. Africa been by the shit, home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there. New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24. Un breve aggiornamento di cronaca prima di chiudere la vicenda del corpo di un uomo ritrovato dentro un sacco sul Po incapretato. Ebbene, è stata fermata una persona, come vi abbiamo raccontato poco fa, è il nipote, è stato fermato appunto per l'omicidio. Ed è tutto per Effetto Giorno, i ringraziamenti Paolo Corleone in regia, Laura Faggin in assistenza in redazione, tutta la redazione di Radio 24 come sempre, i nostri contatti Effetto Giorno @radio24.it, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/Effetto Giorno, la trasmissione torna domani alle 13. Noi ci risentiamo tra un attimo con GR24. Airevo DG Group, soluzioni mirate per costruire il presente. Info su ggroup.it. Vi ha presentato Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti.